24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. E allora, eccoci qui cari italiani, sono le 6:32 minuti e siamo pronti anche oggi, buongiorno a tutti ovviamente, con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il nostro consiglio come sempre, sempre più valido in questi momenti di grande confusione politica. But please relax. Please relax, come al solito, con Luca Dini, che voglio salutare, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno l'ultima, Alessandro. L'ultima puntata, non dell'anno, proprio l'ultima puntata in cui avremo il direttore di Vanity Fair, perché il 21 si sa che, no? Si sa che finisce tutto. Come esatto, sì. Vabbè, lo voglio chiedere anche a Paola Saluzzi, che ritrovo. Ma buongiorno, buon Natale, tanti auguri. Cos'è tutto questo entusiasmo? Che tra due giorni anche te lo sai. Ah, ma no, ma quella è la fine del mondo, un'altra storia, un'altra cosa. Direttore Dini, buongiorno, buongiorno Alessandro. Ecco. La fine del mondo è la fine di un mondo brutto, siamo sinceri, tanto bello non è, e siamo noi in grado di cambiarlo. Questa versione ottimista dei Maya ancora mi mancava, di Paola Saluzzi. Sì, assolutamente. Vabbè, siamo qua è stato stoppato una bottiglia di champagne, ma non è stato ancora aperto il bar, anche perché il famoso bar, ormai abbiamo capito come mai... Tutti questi caffè ci può offrire Nicole Minetti, come mai? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ormai sei capito, no? Direttore, sei capito tutti i caffè, perché ha tutti questi soldi? Perché poi li metterà a rimborso. Nota spese. Paga pantalone, tutti questi caffè. Quindi tutti invitati, va benissimo tutti, e quindi tutti pagano, tutti bevono e paga come sempre la regione Lombardia. Allora, voglio far iniziare a commentare un po' la politica, perché guardate che l'ultima ce n'è una. Berlusconi ne ha detta una ieri, è andato in TV, che questa non è una grandissima. A proposito, Paola Saluzzi, lo inviti a Sky TG24? Assolutamente, la nostra direttore Sara Varetto è già pronta, è già scattato l'invito, chiaro, lo invitiamo. Certo, ma lo inviti tu? Bisogna vedere, ma chi lo sa? Chi lo sa? Questo lo ignoro. Ma tanto guarda che ormai cioè, voglio dire, basta chiamare Palazzo Grazioli e... No, cosa ridi, è vero? Cioè, mettono il palinsesto adesso, il palinsesto di Berlusconi, cioè c'è la TV Rai 1, Rai 2, Rai 3, poi sono le presenze di Berlusconi in TV. Ci saranno sui programmi, sulla pagina dei programmi televisivi, più o meno farà così, ma lo ha detto lui stesso, ha detto in pratica ieri era porta a porta e ha chiesto di rinviare di 2 settimane il voto, perché ci vuole tempo per prevedere la legge di stabilità, approvarla con calma eccetera. Che fretta c'è, ha detto Luca Dini, ha detto che fretta c'è, 1 o 2 settimane. Infatti siamo stati noi a far cadere il governo, giusto? No, infatti, ecco, ma che fretta c'è, ha detto, che fretta c'era, maledetta primavera si potrebbe cantare. Che fretta c'è, perché in realtà la strategia di Silvio Berlusconi, ma in maniera dichiarata, è quella di dire, diciamo, andare in TV il più possibile prima che entri in vigore la par condicio. Allora, per questo, Paola, ti dicevo, potete chiamarlo, verrà sicuramente. Non abbiamo fretta, insomma, non è vero che le elezioni siano dietro l'angolo, possiamo prendercela con calma, certo. Non era dello stesso parere il presidente Napolitano quando ha detto che cosa non avete fatto in questo periodo, chiaramente non rivolto a Berlusconi in persona, ma ecco, magari non c'è stata fretta per cambiare la legge elettorale, non c'è stata fretta per... Io credo che forse una riforma delle carceri abbia bisogno di una gran fretta in questa fase, perché abbiamo un ragazzo combattente di 82 anni che ce la sta mettendo tutta per mettere in crisi tutti, giustamente, e quindi forse un po' di fretta nel cambio delle cose che stanno andando c'è. Ma di questo ne parliamo, della battaglia di Marco Pannella. Tra l'altro io alle 8:15 avrò ospite il ministro della giustizia Paola Severino, e quindi lo preannuncio. Allora sentiamo intanto la voce di Berlusconi, credo ieri da porta a porta, l'ultima comparsa in TV, che tra mezz'ora sarà anche un po' scaduta, ce ne sarà un'altra. avete bisogno di me e quindi non mi astengo quando sento il dovere di portare soccorso a chi ha bisogno. Io penso che la Lega sarà assolutamente insieme a noi nella Rassemblement, nella coalizione dei moderati. Ne sono sicuro. A questo Luca Dini, intanto avete bisogno di me, qui c'è la sintesi in quattro parole di Silvio Berlusconi. Non lo sapevamo neanche noi, ma abbiamo bisogno. È il che pensi mi, proprio avete bisogno di me. Questo Rassemblement gli piace tantissimo. Questa sta diventando la parola chiave. Rascomè, chi è che sa bene il francese? Rassemblement. Rassemblement. Rassemblement. È elegante, però. Vabbè, è elegante così. Avete bisogno di me. Vabbè, io vi voglio fare. L'avete vista l'intervista di Barbara D'Urso? Non so, ne avete. Magari non tutta. Paola Saluzzi, come la giudichi? Dai, su, sbilanciati. Ma sai, Alessandro, è stata un'intervista morbida. Morbida. È stata un'intervista dichiarativa da parte di Berlusconi. Forse non era la sede adatta. Allora, l'intervista dichiarativa. Non era la sede adatta per avere un contraddittorio diretto. E questo lo sappiamo, perché è un programma della domenica, è un programma dove la politica insomma non viene portata per creare caos. Sarà interessantissimo vedere Berlusconi da Santoro, ecco, se vogliamo parlare quello sì nell'arena, quello sarà Santoni. Berlusconi da Santoro. Ha creato il mostro Santoni, Santoro e Berlusconi che si uniscono. Scusate, sei a mezzo del mattino, succede anche questo, aiuto. Ti permettiamo tutto. Allora, prima abbiamo anche una voce di Santoro, ma prima voglio farvi sentire Barbara D'Urso. Ieri Valerio Staffelli le ha consegnato il tapiro, ma c'è una spiegazione di Barbara D'Urso che è veramente straordinaria, sentite. Ma l'intervista con Berlusconi. Ma dico, ma bravissima. Grazie. Ma che efficacia, che domande. Grazie. Di fila, taglienti come coltelli. Ho visto Berlusconi così in difficoltà, a un certo punto ho detto adesso si alza e va via, come fece con l'Annunziata. Lo so, è così. Brava, l'Annunziata non gli ha chiesto di chiedere scusa alle donne, però. Io sì. Brava, sora D'Urso, veramente bravissima. Ma dico, la Gabanelli a lei gli fa un baffo. Esattamente. Ma scherziamo, davvero lo complimenti. So. Solo un dubbio. Sì. Ma in quel momento, quando siete andati in pubblicità, sì, che poi lui ha detto, poi mi domandi di... Io non ho capito se quello stava chiedendo a me, siccome quando arrivava la pubblicità lì arrivava un sacco di gente intorno a me. La spiegazione perché Barbara D'Urso. Io ti dico la che sua sensazione. La mia sensazione è che non l'ho sentito, che secondo me stava chiedendo qualcosa a qualcuno delle 300 persone che erano intorno. Chiedeva qualcosa a qualcuno, ma che cosa? Che cosa? Sentite Barbara D'Urso, qui arriva proprio il clou. Scusa, almeno il tapiro. Ma io volevo capire. Sarebbe stato il settimo. Ma in quel momento. Neanche un settimo tapiro. Secondo lei, quindi, la giustificazione ufficiale qual è? Che in quel momento Berlusconi. Non c'è giustificazione ufficiale. Io ti dico la sua sensazione. La mia sensazione è che non l'ho sentito, che secondo me stava chiedendo qualcosa a qualcuno delle 300 persone che erano intorno. Che ne so, magari ha detto, mi chieda per favore un bicchiere d'acqua. Chieda l'acqua, Luca Dini ha detto, voleva un bicchiere d'acqua, mi domandi un bicchiere d'acqua. Evidentemente è andata un po' così. Però posso dire una cosa solo, certo. Lo dico soprattutto pensando a una grande giornalista come Paola. Mi chiedo sempre perché le conduttrici, le giornaliste donne devono dimostrare due volte di essere diverse, nel senso che io non ricordo onestamente tantissime interviste con un contraddittorio a Berlusconi, o meglio, ne ricordo molte fatte come quella di Barbara D'Urso, però la polemica nazionale si solleva quando succede a una come lei. È una donna, dici, quando succede a una donna. Ma io ho scritto... Direttore, grazie, è vero. Ma io ho anche scritto su Twitter che non è che ci siano dei giornalisti che facciano delle interviste poi così aggressive, stile BBC o stile giornalismo inglese. Quindi, no, perché poi si alzano, appunto, se ne vanno. Esatto. E quindi voglio dire, tutti contro Barbara D'Urso, però è interessante questa chiave di lettura. Paola, che dici? Direttore, grazie innanzitutto, ha centrato un problema, insomma, ecco, ci sono le Gabanelli, giustamente come diceva Saffelli, ci è annunziata che insomma ti puoi alzare e te ne puoi andare se non vuoi rispondere alle mie domande. Certo, non è mai un invito della direttora annunziata. Poi però si viene sottoposti al doppio del torcio, no? Dell'affermazione cattiva. Quando è capitato per le europee, per le elezioni europee, Berlusconi per Sky TG24, e io capitanavo l'intervista che poi realizzarono altri colleghi, nel senso che uno era sul politico, uno era sugli esteri, e uno ovviamente riguardava poi ancora una volta la politica interna italiana, mi fioccarono all'interno alcune critiche, però tu dovevi chiedere, dove io ho detto, senti, la prossima volta quando tu lo avrai sotto mano glielo chiedere tu. Ma no, ma poi c'è quella teoria per cui se uno deve intervistare Silvio Berlusconi, secondo una teoria, come dire, potremmo definirla Marco Travagliesca, uno appena si siede dovrebbe dire lei la mafia, lo stagliere, Mangano, mafioso, adescatore, ecco. Sarà Santoni molto presto. E allora tanto meglio, no? Tanto meglio non intervistarlo. Berlusconi. Berlusconi e Luca Bini, la classe. Tra l'altro Santoro, sentiamolo, ha detto in qualche secondo, non ha detto niente di che, però ha confermato che ci sono dei contatti, ci sono dei contatti. Santoro, sentiamolo. Io vi confermo soltanto che siamo stati contattati, che c'è una disponibilità di Berlusconi a venire nel nostro programma. Poi dopo, se verrà o no, come al solito, bisogna vedere come impostare il programma. Insomma, per ora dice è vero. Allora, vogliamo parlare di questa vicenda delle carceri un attimo, prima di andare alle informazioni sul traffico. Oggi Antonio Padellaro, il direttore del Fatto, sulla prima pagina scrive, e vorrei porvi questo quesito: ma perché una qualsiasi persona che si rifiuta di mangiare, bere, che si rifiuta di fare di alimentarsi per una battaglia, giusta o sbagliata che sia, verrebbe aiutata? Cioè, perché rischia davvero di morire, secondo i medici, Marco Pannella? Anzi, secondo qualche medico ormai ha subito dei danni anche irreversibili, vista l'età. Perché non viene alimentato a forza? Ecco, al di là della battaglia, perché non succede questo? Luca Dini, perché non c'è un medico che dice no, ma questa persona va salvata, come succederebbe di fronte a una qualsiasi persona che si rifiuta di bere o mangiare? Guarda, credo che sia proprio la notorietà di Pannella e la sua battaglia che lo frega in questo senso, perché la sua volontà è talmente forte che viene, io credo che poche persone si prendano la responsabilità di fermarlo fino forse a quando le condizioni non saranno molto peggiori. Non so francamente in questi casi come si ponga anche dal punto di vista della deontologia un medico, però credo che sia lui con la sua battaglia che vince anche sulla preoccupazione, diciamo, per lo stato di salute. Sì, effettivamente è così. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi approfondiamo questo tema. Vorrei parlare con voi anche di un altro tema molto caldo che è stato un po' trascurato, che proviene dagli Stati Uniti dopo l'ultima strage che c'è stata in una scuola, il tema delle armi, che è sempre molto dibattuto e che ora anche gli Stati Uniti, ora chissà se non lo fanno sull'onda della tragedia e poi tra tre giorni se ne sono dimenticati, ma forse pare che vogliono porre un freno almeno alle cosiddette armi d'assalto, che poi cosa vuol dire poi lo capiremo tra poco. 24 mattino. Il signor Monti se ne torna in Europa, visto che è un anno che dice che non si presenta e poi fa come Berlusconi. Un uomo dignitoso non si comporta così. Perché si scandalizza così tanto che ci sono 23 autisti per un'auto blu? Lo Stato non è un'azienda, non deve fare lucro. Lo Stato deve funzionare da ammortizzatore sociale. Quindi se 23 famiglie mangiano perché questi fanno gli autisti, beh, io non sono dispiaciuto. Movimenti, divisioni di partiti che hanno il sapore solamente di avere un pensiero di prodomo, protezione del proprio culo sulla propria sedia, devono smetterla questa gente. E poi evocano ancora sempre il mago Monti. Ma speriamo che venga il mago Telma invece del mago Monti. Ma come si può votare questi delinquenti, cialtroni, corrotti? Non si può, non si può, non si può. Buongiorno signor Milan, le vorrei fare una domanda alla Marzullo. Sono gli italiani che si meritano questi politici o sono i nostri politici che si meritano gli italiani? Voglio vedere gente nuova, ci vuole gente nuova in Parlamento, noi soliti papponi. Alfano, Gasparri, La Russa, Sgarbi e Bondi. Il padrone si è svegliato, correte, correte. Il padrone si è svegliato, su, correte da lui. 1. Dimezzare deputati e senatori. 2. Abolire tutte le province. 3. Caro Alessandro, devi lavorare anche il sabato e la domenica, devi lavorare di più se vuoi triplicare lo stipendio. Ma lavora te il sabato e la domenica. Allora, qua abbiamo Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, che lavora sempre, lo so, lavora sempre, sempre al lavoro. E Paola Saluzzi, di Sky TG24, pomeriggio. Qua, il partito del triplicarmi lo stipendio, devo dire che sia un po' morto come un soufflé. Qua. Siamo passati al premio Nobel per la pace direttamente. Sì, sì, qua tutti armiamoci e partite poi, non è che mi avete sostenuto. Vorrei, non so, un articolo di 5-6 pagine su Vanity Fair per triplicare lo stipendio di Alessandro Milan, poi come al solito le percentuali vengono. È in cantiere. Ecco il classico, quando un direttore ti dice così: è in cantiere, sei spacciato, vuol dire che non uscirà mai nulla. Allora, dalle carceri, il tema di Pannella è un tema molto sentito, come, ripeto, è stato sottovalutato quello, perché siamo presi dalla politica italiana, queste cosucce o cosacce. Ma ragazzi, ma lì è successa una tragedia, l'ennesima tragedia, no? Luca Dini, Paola Saluzzi in America. Vedo che su Vanity anche Daria Bignardi ne scrive questa settimana, no, direttore? Sì, sì. Ma perché c'è questo ostracismo? Sì, c'è la lobby dell'NRA, che sono quelli che vogliono le armi negli Stati Uniti. È vero, c'è scritto nell'emendamento la libertà di tenere le armi. Ho capito, ma le cose non possono cambiare. Perché nessuno riesce a toccare questo aspetto che è logico? Logico, è banale, più armi ci sono e più c'è la possibilità statisticamente che vadano in mano anche a dei pazzi, o no? Luca? Assolutamente sì, però quella cosa dell'emendamento non è banale, purtroppo fa parte della... non è solo la lobby, è la cultura americana, la libertà di difendersi a casa propria. Ma d'accordo, ma tante volte si dice tante volte si può cambiare la Costituzione, si cambiano le cose, è stata scritta in un momento in cui, no, c'era da difendersi anche proprio casa per casa di fronte al nemico, e non è più così. O no? Ma è una mentalità talmente ormai radicata e contorta, per cui molti hanno detto: no, ci vorrebbero delle armi anche nelle scuole, così la preside poteva stenderlo subito al primo colpo. Così, far west. È una follia, sì. Ma hai detto la parola far west. Allora, c'è un DNA che appartiene a tutti, esattamente come quando facciamo una logica autocritica sui nostri difetti di italiani. Il DNA è l'ultima, è la nuova frontiera, no? Parlo di un attore che ho amato per tutta la vita, John Wayne, però un conto è vedere i film di John Wayne, un conto è capire che la mentalità è quella, sono tutti cowboy, lo dico ora senza attaccare etichette facili, nel senso che hanno in testa, al di là del secondo emendamento, il principio che un buon fucile sotto al letto ti difenderà dall'attacco di chi che sia, quando il coyote urla nella prateria. Questo è folle. No, ma infatti molti effettivamente dicevano, se, come diceva Luca Dini, se ci fosse state, non so, delle guardie armate alla scuola, ecco che sarebbe stato fermato l'aggressore armato. Però sì, è una mentalità davvero così lontana da quello che intendiamo. Però noi posso aggiungere una cosa? Sì, direttore. Non è, cioè, anche nel nostro DNA ci sono cose strane. Il discorso delle carceri che facevi prima, in un paese civile non dovremmo stare qui ancora a parlare. Purtroppo ti sfido, ma lo sai anche tu, se tu organizzi una puntata parlando dei diritti dei detenuti, riceverai alla tua segreteria molte chiamate di chi dirà chi se ne frega, i problemi della gente, certo, certo, chiudeteli, buttate via la chiave, eccetera eccetera, quindi in un certo senso siamo un po' cowboy anche noi. No no no, è vero, è vero, è vero, in questo è vero. Io lo so, tutte le volte appena parlo dei detenuti o ti dico nei pannella, chi se ne frega, i detenuti, ma io devo pagare l'IMU, mi devo occupare di quelli che stanno in carcere, proprio è la, il classico riflesso immediato nel momento in cui parli parli finché non abbiamo un nostro parente che magari si trova in quella condizione o un nostro amico, allora improvvisamente noi scopriamo, esatto, quanto valga e quanto sia grosso un problema quando ci siamo finiti con i piedi dentro, o finché, uno non, finché uno non capisce che potrebbe trovarsi anche lui in quella, esatto, condizione. Siamo detenuti in attesa di giudizio di Alberto Sordi e di Nanni Loi, questo, esatto, voglio dire, cioè la fine del mondo sta arrivando per Marco Pannella, perché Marco Pannella ci sta facendo vedere la fine di un mondo che deve finire. Premetto, io non sono iscritta al Partito Radicale, molto spesso ho avuto posizioni completamente diverse, però trovo che eticamente parlando la battaglia di quest'uomo sia giusta, giusta, non per creare dei grand hotel dall'altra parte, ma sia giusta. Su questo siamo, sì, un paese incivile da questo punto di vista. Su questo siamo, sì, rimasti un paese incivile. Tra l'altro molte delle persone detenute in questo momento, circa un terzo, la gente continua a dimenticarlo, sono in attesa di giudizio e potrebbero essere anche giudicate poi innocenti e quindi sono state in carcere. Statisticamente una buona parte lo sarà. Infatti, infatti. Allora io un minuto e mezzo, devo dire che oggi Luca Dini fa un regalo un po' alle donne, perché dai, su, mette in copertina Roberto Bolle così con questo chiaramente Photoshop. Saluzzi, calmati, non hai ancora comprato il numero di Vanity Fair. Roberto Bolle con sta tartaruga in vista, poi un'intervista a Brad Pitt. Sì, vabbè, ma cioè, Luca, vabbè, a parte che quella tartaruga lì di Bolle, dai, è finta in copertina. È sospetto, dici, è ma non so quello. Ma non lo so, se c'ha dei pettorali e degli addominali, insomma. Cosa farà mai poi il ballerino alla Scala? Cosa farà mai? No, devo dire che, vabbè, Paola Saluzzi, compra, corri pure in edicola, perché ci sono delle foto interessanti su questo numero di Vanity Fair. Comunque sappiate, signori, che se anche arriva la fine del mondo il giorno 21, è, sì, stato un onore passare queste mattine con Luca Dini e con Alessandro. Benissimo, Milano, anche perché non ce ne saranno onore mai più di mattine. Cioè, finisce tutto, finisce tutto, finisce tutto. In bellezza. Dai. Grazie, allora, grazie a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, con Roberto Bolle finto in copertina oggi il numero. Anche Miriam Lucchetti ha detto: è chiaramente finto, degli addominali così non possono essere veri. Grazie a Paola Saluzzi e ci ritroviamo forse, se il mondo ci sarà, l'anno prossimo. E ora andiamo al GR delle 7. Avete bisogno di me e quindi non mi astengo quando senti il dovere di portare soccorso a chi ha bisogno. Ne sono sicuro. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci, sono le 7 e 19 minuti, siamo pronti dunque alla lettura dei giornali. Detto che oggi avremo ospite alle 8 e 15 il ministro della giustizia Paola Severino per parlare anche della situazione delle carceri e anche dello sciopero, ormai è arrivato al nono giorno, sentite di, ma avete sentito nel GR di Marco Pannella. Parleremo poi di un tema che sta diventando sempre più polemico riguardo alla possibile candidatura di Antonio Ingroia, un altro magistrato che sembra proprio pronto a buttarsi in politica. Questa è alle 8.30, con noi ci sarà Filippo Facci, ci sarà Livio Pepino, che è un ex magistrato che fa parte anche di quel movimento cosiddetto arancione vicino Antonio Ingroia. Magistrati in politica e il ministro Severino alle 8.15. Ora appunto i giornali che trovate in edicola.

nero della sua terra, l'Afghanistan, rannicchiato in 60 centimetri per 30, il suo petto si muoveva veloce come quello di un gatto che cerca la fuga. In una valigia bucata per farlo respirare, quello che si è detto è stato fermato ovviamente con accuse terribili. E ha detto sono il padre, poi dopo ha balbettato no sono lo zio, lo sto portando dalla Grecia dei parenti in Germania. È stato fermato, scoperto dal finanziere che fa aprire il trolley, era accompagnato da un adulto che sosteneva di essere suo zio, era diretto in Germania, ora sarà affidato a una comunità. Ma davvero incredibile questa storia, anche terribile, il bimbo che arriva a Venezia dentro una valigia. Ci fermiamo qui, è tempo di giornale radio. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Eccoci, le 8:16, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io voglio subito salutare con noi, la ringrazio, il ministro alla giustizia Paola Severino. Ministro, buongiorno e grazie per essere con noi in diretta a Radio 24. Buongiorno e grazie a voi per l'attenzione ad un tema estremamente importante. Esatto, quello delle carceri italiane. E come sa Marco Pannella, ormai è al nono giorno di sciopero della fame e della sete, le sue condizioni abbiamo sentito sono anche molto gravi. Intanto lei condivide in qualche modo questa forma estrema di protesta di Pannella? Ma guardi, io considero Pannella una persona eroica da questo punto di vista, perché riesce a sacrificare se stesso per una causa importante. E se l'avessi potuto incontrare l'altro ieri, gli avrei detto che noi abbiamo un obiettivo comune, che è quello di rendere le carceri un luogo umano, in cui far scontare alle persone la pena non equivalga a privarle di dignità e di speranza. E questo obiettivo comune ovviamente stiamo cercando di raggiungere per strade diverse. Lui con la richiesta costante di amnistia, sì. Io non potendo il governo varare l'amnistia con delle leggi che cercassero di rendere più umana la situazione del carcere. E devo dire che ho sondato più volte il Parlamento perché è richiesta la maggioranza di 2/3 per varare l'amnistia. L'ho fatto anche ultimamente, proprio in occasione dello sciopero della fame di Pannella, ma ho trovato sempre una stessa risposta. Non abbiamo la maggioranza dei 2/3 che è necessaria per varare l'amnistia. Quindi l'amnistia non avrebbe i numeri in Parlamento, ma secondo lei sarebbe comunque auspicabile? Perché sa che è un tema molto impopolare, ricorda anche le polemiche sull'indulto qualche anno fa, i cittadini italiani faticherebbero a capirla. Secondo lei sarebbe auspicabile un'amnistia? E non a caso non viene varata, perché il Parlamento tiene conto evidentemente di questa situazione. Io devo dire che ho trovato molto bello ed equilibrato un breve articolo del Sole 24 Ore di questa mattina, in cui il tema viene sviscerato in questi termini. Vorrei leggere un pezzetto breve ma che è molto significativo. Sembra che si stia tirando la corda per poi essere costretti a varare un'amnistia, un regalo più a chi ha pendenze con la giustizia che ai detenuti, senza voler cogliere l'occasione per costruire con misure strutturali, più volte invocate dal capo dello Stato e impostate dal governo, un carcere rispettoso dei diritti e della sicurezza collettiva. Questo è il vivo davanti al quale ci troviamo. L'emergenza non tollera più rinvii, ma se la clemenza sembra la via obbligata, rischia di diventare un alibi per seppellire le riforme necessarie per non ritrovarci tra qualche anno nella stessa emergenza. Vede, questo articolo sviluppa proprio quel concetto. L'emergenza può anche richiedere una misura eccezionale come l'indulto o l'amnistia, sì. Ma poi il problema deve essere affrontato strutturalmente. Ed è proprio a questo scopo che sono state apprestate le riforme che il governo ha varato. Però noi eravamo... una di queste riforme, Ministro, le cosiddette disegno di legge sulle misure alternative al carcere, lei auspica davvero che venga approvato prima del termine della legislatura? Perché ormai sembra un marasma politico e sembra che il tempo stia stringendo. Il tempo stringe, non sappiamo quanto durerà questo tempo, perché oggi sentivo da dire e leggevo che questo tempo potrebbe allungarsi. Io dico che se l'ultimo atto di questa legislatura fosse una legge sulle misure alternative alla detenzione, visto che comunque non si possono raggiungere maggioranze per l'amnistia, beh, questa legislatura si caratterizzerebbe per aver preso delle misure importanti e avrebbe risposto a quell'appello forte del Capo dello Stato dell'altro ieri, il quale ci diceva: ma con che senso di responsabilità, di umanità, di civiltà costituzionale ci si può sottrarre ad un serio minimo sforzo per alleggerire la vergognosa realtà carceraria che marchia l'Italia? Sa, ecco, che però i radicali dicono, Rita Bernardini, che quel provvedimento che lei fortemente vuole risolve in realtà pochissimo, credo loro dicono lo 0,3% dei detenuti, e quindi pochi numeri rispetto al sovraffollamento reale. Ma intanto abbiamo dati diversi, perché il relatore di questo provvedimento alla Camera dava un numero di 1200 detenuti l'anno che possono essere raggiunti da queste misure alternative. I dati che io ho raccolto al Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria mi parlano di ingressi ogni anno, di 2819 ingressi ogni anno per reati puniti con pena massima fino a 4 anni, cioè quei soggetti che potrebbero beneficiare di queste misure alternative. Dunque i numeri sono diversi. E se si sommano poi agli altri della salvacarceri e al piano straordinario per l'edificazione di carceri, io dico che qualche misura strutturale l'abbiamo messa insieme. Senta, le do una notizia che apprendiamo in diretta. Secondo Sky, Marco Pannella avrebbe accettato la terapia endovena, che insomma, perché la situazione pare davvero critica, ovviamente deve accettare. Gliela do così, insomma, non so se vuole commentare se questa notizia è davvero vera, immagino sia fonte di soddisfazione. Ecco, io me ne compiaccio fortemente, perché noi abbiamo bisogno di Marco Pannella vivo, delle sue idee forti per le quali ha combattuto una vita. Ricordiamo gli alti ideali che lui ha sempre portato avanti nelle battaglie radicali. E io vorrei combattere al suo fianco, sia pure con mezzi diversi da quelli che lui può utilizzare. Come sa, molta gente dice il tema intanto per molti italiani è ma chi ce ne importa di quello che succede nelle carceri italiane, oppure costruite nuove carceri, oppure ristrutturate meglio la situazione attuale e fate in modo che tutti abbiano un posto più dignitoso, ma non fate provvedimenti per svuotare, diciamo, le carceri. Ma è un po' questa la linea ispiratrice del governo. Noi prevediamo che entro il 2014 ci saranno 11.000 posti in più e già ne abbiamo costruiti e consegnati al 31 dicembre 2012 3.178 e ne consegneremo entro giugno 2013 2.382. Dunque su questo piano noi ci stiamo fortemente impegnando e ci stiamo anche impegnando nel selezionare provvedimenti che riescano a contemperare la sicurezza dei cittadini con l'esigenza di un carcere più dignitoso. Cioè, noi non abbiamo mai pensato che si dovessero mandare fuori dal carcere indistintamente soggetti pericolosi e non pericolosi. Abbiamo sempre creduto nel filtro del giudice per valutare la pericolosità. Ministro Severino, parliamo di politica, nel senso che ormai è un toto ministri tecnici che faranno tra poco, la legislatura sta comunque per finire. Lei ha deciso che farà, cioè le è piaciuta l'avventura politica, pensa di poter continuare in qualche modo o torna al suo lavoro di avvocato? Ma io credo che la esperienza di governo sia stata un'esperienza straordinariamente viva nell'arco della mia vita, che ricorderò sempre come estremamente stimolante e ricca di spunti importanti, non lo dico per retorica, però ho sempre detto e lo farò che ho la fortuna di svolgere un lavoro, anzi due lavori che mi piacciono molto e ai quali ritornerò con grande entusiasmo una volta finita la mia esperienza di governo. Quindi farà quello. Non mi dica che anche lei non sa niente su Mario Monti. Davvero? Guardi, sarà banale, ma le dico proprio di sì. Tra l'altro ho un grande rispetto per questa sua, per questo suo pensare alle decisioni che dovrà prendere, che comunque lo impegneranno molto. E quindi non voglio in alcun modo che discorsi tra di noi possano rappresentare una forzatura, quindi aspetto con fiducia alle sue decisioni, sapendo che è un uomo saggio e ponderato, che quindi le sue decisioni saranno molto pensate. Senta, Ministro Severino, detto che tutti sono liberi di candidarsi, lei come giudica un'eventuale candidatura del magistrato Antonio Ingroia, che adesso è in Guatemala, ma che ancora adesso dice non ho ancora deciso, ma pare che venerdì possa sciogliere questo dubbio e possibilmente anche candidarsi? Ma vede, dal punto di vista normativo nulla impedisce ad un magistrato di candidarsi. Ci siamo detti più volte tutti che la materia andrebbe regolamentata, però finché non c'è una regola scritta, io credo che quella che lei invocava, cioè la libertà di ciascuno di candidarsi, non possa essere in alcun modo limitata. Però dovrebbe, che ne so, essere un passo senza ritorno, cioè un magistrato che entra in politica, secondo lei, dovrebbe non poter più tornare in magistratura, lasciare la magistratura invece che mettersi in aspettative? Ma vede, il problema sussiste sia all'inizio che al termine, perché ci possono essere delle vicinanze con le attività che sono state svolte, e questo naturalmente crea un problema. Però ci sono tanti modi per vincere il conflitto di interessi che si può creare. Uno di questi modi è scegliere una candidatura e un modo di svolgere la propria funzione politica tale da non avere punti di contatto con quello che si è fatto in precedenza. Un'ultima domanda è questa: spesso si parla di giustizia penale, ma il vero nodo dell'Italia è la giustizia civile. So che oggi forse presenterete un programma per digitalizzare una dei tribunali che sono ancora purtroppo ancora poco digitalizzati, poco moderni, soprattutto per alcune regioni. Di che cosa si tratta e soprattutto che speranze ci sia che questa possa essere una riforma da approvare entro quando? Allora, oggi abbiamo due buone notizie. La prima è che presenteremo con il ministro Barca questo progetto di digitalizzazione che riguarda 56 tribunali italiani e che è già una realtà, nel senso che non richiede approvazione parlamentare. L'altro è che invece nel decreto stabilità è stato inserito un emendamento sulla digitalizzazione del processo civile, che prevede che tutte le notifiche del processo civile possano essere fatte in via informatica, e credo che questo sia un grandissimo passo avanti, soprattutto dopo che la geografia giudiziaria ha ridistribuito la presenza territoriale dei tribunali. Ecco, riavvicinare il cittadino alla giustizia con il mezzo telematico mi è sembrato uno sforzo assolutamente necessario per rendere la giustizia civile più fruibile da parte di tutti. Io intanto la ringrazio per essere stata con noi. Grazie al Ministro della Giustizia Paola Severino. Noi, buona giornata. Ovviamente noi tra poco parleremo, dopo la pubblicità, seguiremo in qualche modo questo filo anche di una domanda che le ho fatto, cioè la vicenda di Antonio Ingroia, non tanto per personalizzare, se volete si può anche personalizzare la vicenda di Antonio Ingroia, ma comunque è l'ennesimo magistrato che, dopo, che ne so, i casi più famosi Di Pietro o De Magistris, che lascia la toga o si mette in aspettativa, adesso vedremo, ed è pronto a scendere in campo in politica. Allora, è opportuno secondo voi? Non è opportuno? È una cosa che vi lascia né caldo né freddo? In fondo un magistrato, un po' come qualsiasi cittadino italiano, è libero di fare quello che vuole. Ne discutiamo anche con voi in questo momento di, come dire, incertezza, confusione politica. 800 24 00 24, tra pochi minuti dopo la pubblicità e il meteo. 24 mattino. Eccoci qua, allora sono le 8:33 minuti, dopo aver avuto con noi Paola Severino, il Ministro della Giustizia, per parlare anche di quello che sta succedendo, le carceri, con la protesta molto estrema di Marco Pannella. Vogliamo parlare della possibile candidatura di Antonio Ingroia, sostituto procuratore a Palermo, in questo momento però in Guatemala, anche se oggi c'è un interessante colloquio di Ingroia con il Corriere della Sera, con l'inviato Rocco Cotroneo che va a trovarlo. Vogliamo parlare di una sua possibile candidatura, non che non sia possibile per un magistrato come per qualsiasi cittadino candidarsi, e assolutamente questo non lo vogliamo neanche mettere in discussione per mezzo secondo, però insomma questo ennesimo magistrato che finisce in politica o potrebbe finire in politica, fa già molto discutere. Ne vogliamo discutere con intanto uno che la magistratura la conosce, è stato magistrato per tanti anni, ora in pensione, Livio Pepino, che torna nostro ospite. Buongiorno Pepino e benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a lei, grazie. Tra l'altro vorrei anche capire, tra poco ci dirà, perché mi risulta che anche lei faccia un po' parte così di questo movimento che si sta agglomerando attorno ad Antonio Ingroia. Saluto anche uno invece dei più acerrimi critici giornalistici di Antonio Ingroia, delle sue posizioni, Filippo Facci di Libero. Buongiorno Filippo, ben ritrovato, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, intanto il colloquio di oggi sul Corriere della Sera, non ho ancora deciso se scegliere, se candidarmi. Anche Scalfaro era un magistrato ed è stato Presidente della Repubblica, quindi problema e polemica che non si pone. Un Antonio Ingroia che dice, sì è vero, io sono prezzemolino, come lo definirebbe Filippo Facci, lui non utilizza questo termine, è vero, faccio radio, tv, articoli, libri, un blog, ho tenuto dei fili ma dormo poco la notte, rispondo alle mail, alle telefonate e poi quando l'Italia va a dormire qui in Guatemala lavoro. Insomma, intanto Filippo Facci, perché è davvero così scandaloso, non so se condivide questo aggettivo, o comunque lei critica moltissimo la possibilità che un libero cittadino, Antonio Ingroia, si candidi e entri in politica. Cosa c'è di così scandaloso? Anzitutto no, non critico che un libero cittadino, vi segnalo intanto che ho un ritorno audio. Adesso proviamo a sistemarlo. Non critico che un cittadino scenda in politica, neppure se fa il magistrato. Critico le modalità particolari che appartengono e al cittadino specifico Antonio Ingroia e, secondo me, all'interno di una discussione più ampia, critico le possibilità che un magistrato possa scendere in politica nelle modalità in cui è avvenuto, avviene tipicamente in Italia, per descriverlo qua insomma dovrei entrare nella specificità di come si è comportato Ingroia in tutti questi anni, al pari di altri personaggi che hanno abbandonato una professione particolare, secondo me, che io ho sempre visto in termini, nel senso buono del termine, castali, che implicano insomma un porsi in termini che obblighino a porsi in maniera, scusate, non riesco a parlare con questo ritorno. Allora proviamo, perché deve essere un problema semplicemente di cellulare. Allora, proviamo a richiamare, mettiamo giù la richiamiamo, ma tanto nel giro di 30 secondi, forse di linea. A volte i cellulari fanno questo tipo di ritorno. Allora, rivolgiamo la stessa domanda contrapposta, forse a Livio Pepino, a dire: intanto, Pepino, lei fa parte di questo agglomerato che vede De Magistris, forse Di Pietro, venerdì al Teatro Capranica, lei ci sarà? Ci sarò, io in realtà faccio parte di un percorso che è un percorso che mi auguro confluisca con questa esperienza, che il percorso di cambiare si può, che ha peraltro una genesi diversa, una genesi dal basso, è stato un appello di 70 persone, è passato attraverso 100 assemblee sul territorio, che ha cercato un progetto diverso di fare politica dal basso per cambiare la situazione che ci sembra del tutto inaccettabile. E cosa si attende venerdì? Cosa ne pensa di Ingroia in politica? Perché anche, guardi, il direttore del Fatto Quotidiano, dove Ingroia tiene un blog, Antonio Padellaro, ha detto no, serve più, caro Ingroia, lei serve più da magistrato, non si butti nell'agone politico, andrebbe a perdere un po', disperdere il suo patrimonio anche di capacità e di qualità. È una valutazione legittima, che peraltro si collega all'introduzione che faceva lei. Ingroia è un magistrato che, come tanti magistrati o tanti altri personaggi che hanno esercitato delle funzioni pubbliche diverse, a un certo punto, in una situazione che la legge gli consente, forse, perché anch'io ho visto la sua intervista in cui dice che non ha ancora deciso, decide di fare un'altra cosa, e cioè di fare politica. Di fare politica attraverso una presentazione alle elezioni. Anzitutto è una scelta legittima. Secondo, è una scelta opinabile, come tutte le scelte opinabili. Il commento di Padellaro sul Fatto è, infatti, nel senso di dire, servi di più a fare il magistrato. E questa però è una scelta, come dire, nel momento in cui è opinabile, è una scelta in cui ci sono come sempre, elementi a favore dell'uno o dell'altro. Io non la vedo come una scelta scandalosa. No, no, ma scandalosa, scandalosa forse, no, questo è forse un aggettivo che ho usato io, scandalosa per qualcuno, anche lo stesso Filippo Facci che abbiamo recuperato non dice scandalosa, però Filippo Facci, io posso tradurre così, cioè secondo lei l'accusa è che Ingroia in realtà ha già fatto politica in tutti questi anni in una serie di dichiarazioni e questo è il percorso che lo porta a un'eventuale candidatura che non le piace o no? Non ho capito, no, facci, facci, scusami, ci siamo tutti intercettati. Sì, sì, sì, no, anche se non abbiamo risolto il problema audio, provo lo stesso. Allora, per parlarci un po' più chiaro, la maggior parte dei magistrati che si sono messi in politica negli ultimi anni sollevando rumore l'hanno sollevato legittimamente, secondo me, perché il tipo di ascolto, diciamo, che ha portato alla loro elezione è legato alla conduzione delle loro indagini, con ciò gettando un'ombra talvolta giustificatissima e di cui la stessa magistratura si è avveduta su tutta la loro attività precedente. Quindi qui il punto non è tu non ti devi candidare, il punto è che gli stessi magistrati con modalità e soluzioni diverse hanno perciò proposto, per esempio, che ci fosse un periodo di decompressione che facesse sì che anche un personaggio come De Magistris, che oltretutto ha condotto delle inchieste fallimentari con modalità che la stessa che lo stesso corpus della magistratura a livelli più che autorevole ha riconosciuto, negandogli per esempio a suo tempo la promozione a magistrato d'appello, possa, un personaggio come De Magistris o come tanti altri, perché la truppa comincia a farsi nutrita in Parlamento, appunto offrirci l'impressione, secondo me più che giustificata, che conducano un mestiere per il quale hanno vinto un concorso e che io, ripeto, continuo a vedere come un mestiere particolare che implica un certo spirito di servizio che impedisca che si vada a fare il tipo di attività pubblicistica, pubblica, che per esempio Ingroia ha condotto per ragioni, secondo me, elettorali e politiche negli ultimi mesi, o meglio, gli dia dei vincoli particolari, posto naturalmente che in qualsiasi momento si può dire che la Costituzione non lo impedisce. Cioè, cosa dovrebbero fare? Si dimettono e stanno un paio d'anni. Ci sono varie opzioni che la stessa politica, la stessa magistratura ha proposto, cioè che per esempio che riguarda soprattutto anche un altro problema che dobbiamo affrontare, che non è solo quello che vadano in politica, ma che poi dalla politica rientrino in magistratura. Questo sì, però Facci, perché questo non deve valere per uno che fa l'avvocato, che anzi continua a fare l'avvocato mentre fa il parlamentare o il medico o qualsiasi altro lavoro? Perché al di là del meraviglioso sistema accusatorio che disegnammo nel 1989, l'avvocato non rappresenta lo Stato, non è un dipendente pubblico, mi scuso per la persona limitativa, che è pagato dal contribuente, per dirla male, per esercitare un mestiere per il quale dovrebbe essere giudicato in termini diversi da quelli quelli mediatici, soprattutto, che fanno figurare una serie di personaggi prescindendo anche dalla loro effettiva valenza e dai loro risultati che hanno ottenuto. Non parlo di risultati solo in termini da soppesare, hai risolto questa pratica, ne hai sviluppate tante, eccetera eccetera, perché non si può misurare solo in termini efficientistici, ma spesso, insomma, abbiamo magistrati che hanno fatto giusto il contrario. Cioè, potrei fare degli esempi, non so se ne avremo il tempo, di persone che hanno fatto, in Puglia è successo particolarmente, l'inchiesta su Tizio Caio, arrivano le elezioni e si candidano contro Tizio, contro Caio. Ecco, questo non è ancora finito. È un punto, insomma, interessante sul quale Livio Pepino, l'accusa è questa, cioè i magistrati per loro stessa natura possono anche trovarsi nel loro lavoro, nell'esercizio della loro funzione, avere a che fare con politici, e nel caso di Antonio Ingroia è successo, addirittura ricordiamo la vicenda con il conflitto di attribuzione con il Quirinale, sollevato dal Quirinale, poi risolto dalla Corte Costituzionale. È chiaro che, come dire, per il ruolo delicato che avete, che anche lei ha avuto, avete a che fare con politici, e poi per molti italiani si può sfruttare questo lavoro precedente per poi entrare in politica, e con quale indipendenza dal punto di vista sia politico e sia in retrospettiva del lavoro che è stato fatto fino a quel momento. Problema generale è un problema specifico che riguarda Ingroia oggi, che secondo me non possono sovrapporsi, non si può parlare di Ingroia parlando di altri magistrati. C'è una situazione di potenziale delicatezza, non c'è dubbio, ma non c'è dubbio come c'è una posizione di delicatezza nei confronti del giornalista, dove magari il giorno prima uno dice: ma allora tu hai fatto questa campagna di stampa, hai fatto questa cosa funzionale a una, del manager pubblico, allora tu hai gestito questa impresa, hai gestito questa situazione per arrivare a questo tipo di risultato. Cioè, la possibilità di forme di interferenza tra sì. un'attività precedente e un'attività successiva c'è sempre, ci sono per tutti, diciamo un possibile conflitto, un possibile conflitto di interessi c'è per tutti, lei dice, per tutte le professioni, per tutti no, ma per molte professioni certamente sì. Allora il problema non è quello di fare un discorso generale, che se fosse, avesse la dimensione che veniva accennata prima, beh, dovrebbe essere il legislatore a dire: allora questo non si può fare. Nel momento in cui il nostro Parlamento dice si può fare, vuol dire che è una situazione che va risolta caso per caso. E allora, se parliamo caso per caso, io credo che non si possa fare un ragionamento generico. Si deve dire come, dove e quando certe scelte processuali, di indagine o di altra natura, di Ingroia, si ritiene che siano state strumentali. Allora io rilevo che proprio in questo, in questa vicenda a cui si è fatto esempio, di cui si è fatto esempio, il problema trattativo, le intercettazioni sì, sì. e quant'altro, credo che sia quasi l'unico caso negli ultimi 10 anni in cui le intercettazioni sono rimaste segrete. Non c'è stata intercettazione in Italia negli ultimi 10 anni che in un modo o nell'altro non sia finita sui giornali. L'unica che non è finita è questa. Allora, beh, dovrebbe essere, lei lo pone come un punto di merito, dovrebbe essere in realtà sempre così, e invece lei dice almeno questa è stata un segreto custodito bene, ecco. Responsabilità diverse, non sempre per responsabilità dei magistrati, talora anche per responsabilità dei magistrati. In questo caso non è accaduto. Se un pubblico ministero avesse voluto strumentalizzare questa vicenda, avrebbe avuto ampie possibilità di farlo. Non è stato fatto. Ma è stato fatto in passato, secondo lei? È stato fatto in passato? Io credo che spero in alcuni casi... No, io non potremmo discutere di casi. Io credo che talora, per superficialità o per interesse di alcune delle parti del processo, non sempre i magistrati, non solo i magistrati, perché sì, gli atti potevano essere conosciuti da avvocati o da altri, siano state pubblicate delle intercettazioni che non dovevano essere pubblicate per motivi strumentali. Ma è chiaro, si fermi un attimo, devo dare le informazioni sul traffico e ripartiamo con Livio Pepino, ex magistrato, fondatore di Magistratura Democratica, uno dei sindacati della magistratura, e Filippo Facci di Libero. Parliamo di Antonio Ingroia. Eccoci qua allora con Filippo Facci e Livio Pepino. Vorrei due ascoltatori, perché poi è interessante, no, quello che ha detto, e vorrei un commento di Facci su quello che ha detto Livio Pepino, cioè dire questa tanto discussa indagine sulla trattativa, queste intercettazioni di Napolitano sono il segreto meglio custodito. Paolo da Bolzano prima. Paolo, buongiorno, che ne pensa lei? Buongiorno, io sono assolutamente d'accordo con Facci. E perché lo ritengo inopportuno. Fra l'altro c'è un piccolissimo particolare: che secondo me dovrebbe essere inibita la possibilità di fare politica a tutti i funzionari pubblici di un certo livello, perché una cosa della quale non si tiene conto è anche l'aspetto economico. Cioè, se Ingroia adesso va in politica, va sostituito, va messo uno al suo posto con altrettanto stipendio, tra l'altro pensione. Ho capito, però lui, vabbè, però lui rinuncia, lui si dimetterà. Voglio dire, Paolo, noi gli paghiamo la pensione. Ma mi scusi, ma non trova un po' incostituzionale dire tutti si possono candidare tranne, che ne so, i magistrati? Cioè, cos'è, una cosa un po' forte, no, dire? È forte, però purtroppo bisogna tener conto anche di questo: lui va sostituito con qualcuno e con lui, fra l'altro, distrugge tutto il suo patrimonio di esperienza giudiziaria che ha avuto e che si è fatto grazie al concorso che ha vinto, che è stato pagato, e si è fatto pubblicità col suo compito istituzionale. Ho capito, ma questo può succedere, Paolo, mi scusi, può succedere per un evento anche naturale. Adesso uno si ammala, non può più continuare a fare la magistratura, il magistrato, e quindi disperde il suo patrimonio, oppure si dimette, oppure oppure decide di cambiare vita e vuole andare in Tibet. Comunque lei va bene, grazie per il suo intervento. Paolo, vorrei andare a Torino da Giancarlo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno signor Milan. No, io dico che sono contento che Ingroia vuole scendere in politica, anche se lo vedrei meglio in magistratura, perché a Palermo sarebbe più utile per contrastare la criminalità organizzata. Poi comunque sono contento anche se scende in politica, perché per me è una persona per bene, una persona seria, ed è una persona pulita, ed è sicuramente meglio lui che avere di nuovo come candidato un Dell'Utri che è condannato per mafia, o politici inquisiti come Berlusconi, come altro. Sicuramente fa più bella figura al paese una persona come Ingroia, pulita e seria, che quei due personaggi e tanti altri che saranno di nuovo rieletti e andranno di nuovo in Parlamento a fare i loro affari. Grazie Giancarlo. Filippo Facci, come commenta l'idea di dire Pepino dice quella è stata, le intercettazioni di Napolitano non sono state sicuramente utilizzate in modo strumentale, infatti non si legge una riga di quello che lui e Nicola Mancino si sono detti al telefono, quindi questo va a dimostrazione del fatto della correttezza di Antonio Ingroia. Ma senta, io se sto qua due ore vi descrivo altri episodi, ma non credo che non propriamente edificanti per Ingroia, ma non penso che il punto sia quello, nel senso che la questione delle intercettazioni non è particolarmente pertinente per la nostra discussione. Questo è il mio parere, perché si potrebbero citare ben altre cose, interventi, libri dove sostenere che una forza politica come Forza Italia sia nata per matrice mafiosa, interventi a congressi di partito che sono stati censurati anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, insomma prese di posizione nettissimamente maggioritarie che, ripeto, se si scagliano soprattutto, ma sempre legittimamente, nella direzione di una forza politica che poi non è propriamente quella dove si candida Ingroia, è chiaro che insomma l'elettore che cosa può attendersi da un Ingroia se non che semplicemente continui con altri mezzi la lotta politica che forse aveva cominciato prima. E poi non è vero che non si può fare niente perché sennò si lede la Costituzione, si possono fare delle regole che, ripeto, riguardino anche il fatto che a un certo punto il rientro eventuale nei ranghi della magistratura si può limitarlo a certi ranghi della pubblica amministrazione, all'avvocatura dello Stato, non subito nelle aule di giustizia. Una persona potrebbe candidarsi dopo solo un periodo di compressione in modo da non sfruttare problema Facci, come dice per esempio De Magistris. Lei dice ha fatto delle inchieste e non ha portato a nulla, ma De Magistris dice chiaramente la politica mi ha ostacolato. Quando si sono andati a toccare i politici, a questo punto un magistrato se sente questa sensazione, al di là che fosse giusto, che sia giusto o sbagliato, ma lui la vede così, cosa deve fare? Cioè, se io indago sui politici, il mio lavoro da magistrato mi viene ostacolato. Ma no, se non è la verità, cioè nessuno, la verità è che io chiamerei il mio interlocutore a testimoniarlo. La verità è che la magistratura in Italia è più che indipendente, e spesso se non lo è anche in seno a scelte e decisioni proprie del singolo, della corporazione, e quindi non c'è nessun politico che può fermare un'inchiesta condotta con tutti i crismi. Sentiamo Pepino, è così Pepino? È caduto la linea, forse. Oggi siamo qua, ritorni, siamo tutti intercettati. Questo... Sì, infatti, questo è il problema. Siamo tutti intercettati, questa è la verità. Facci, sì. Ne approfitto, così poi eventualmente lascio la mia parola al mio interlocutore. Però, insomma, la questione è cristallina. Cioè, un magistrato si comporta in una maniera atipica, sanzionata o criticata dalla sua stessa corporazione, si rivolge soprattutto contro delle persone o contro una parte politica in libri, incontri sul blog di Grillo al congresso dei comunisti italiani, insomma, da una parte, dico la verità, io sono quasi contento che faccia politica un personaggio così, lo scrissi anche per De Magistris, perché tanto è delicata la professione di pubblico ministero, che ha a che fare, ricordiamolo, con la libertà altrui, che tutto sommato in politica una persona può fare meno danni. Ah. Quindi, come dire, no, ma sì, sentiamo, visto che abbiamo recuperato Peppino. Peppino diceva: Facci, basta, i magistrati sono talmente indipendenti che non c'è politico che possa in qualche modo ostacolarne un'inchiesta fatta con i dovuti crismi. Perché la mia accusa era: spesso ci sono magistrati che dicono quando tocchiamo la politica ci ostacolano, ed ecco che dobbiamo allora abbandonare la toga. È davvero così? C'è un'indipendenza totale della magistratura, Peppino? Mi spiace tra l'altro che è caduta la linea, per cui non posso rispondere alla sua domanda, non interloquire con quanto diceva Facci perché non l'ho sentito, quindi rispondo alla domanda sua. Io credo che ci siano delle condizioni di indipendenza reale significativa sia dei giudici che dei pubblici ministeri. Per fortuna negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni ci sono state una serie di riforme ordinamentali che hanno consentito questa effettiva indipendenza, un'indipendenza coerente con il modello costituzionale. Direi che negli ultimi anni, a partire da Castelli, dalla cosiddetta riforma Castelli, si cerca di fare un percorso a ritroso. Per esempio nelle procure si sono reintrodotte forme sia pure limitate di vincoli gerarchici tendenti a limitare l'indipendenza di ogni pubblico ministero. Però ci sono delle condizioni di indipendenza effettiva. Io credo che un magistrato che vuol fare bene il suo mestiere abbia può le condizioni per poterlo fare, indipendenza, non sia costretto ad andarsene. Allora, la devo interrompere qui perché altrimenti sforo. La ringrazio però Livio Peppino, così come ringrazio Filippo Facci. Attendiamo dunque venerdì Mario Monti potrebbe sciogliere la riserva, venerdì Antonio Ingroia potrebbe sciogliere la riserva, venerdì è il 21, i Maia. Vabbè, questa è una battuta un po' scontata, non c'entra nulla, permettetemi di chiudere con un sorriso. Ci troviamo domani alle 6:30.